storia di chi non si accontenta di niente, che non si sente mai importante, come una goccia in mezzo ad un mare di gente, dove è nascosta la felicità. E chiuso dentro al suo mondo, guarda dalla finestra la vita scorrere senza di lui, e sempre a farsi problemi per gli altri, senza nemici, con troppi rimpianti per essere vero, essere serio. Si ritrova solo forse perché è troppo sincero. E sai che forse quell'uomo a volte sembro io, stanco di pregare Dio. Tutte le volte che mi viene da ridere ma senza un perché, mi sembra d'essere tornato con te. Quanto è difficile fidarsi di me, adesso è tempo di cambiare, anche se mi viene da ridere ed in fondo non c'è una risposta a tutti questi perché, ma forse è tempo di pensare per me, sarà il momento di cambiare. Questa è la storia di chi si mette sempre da parte, non ha il coraggio di combattere, e chiuso nella sua stanza pensa quanto sia facile mollare tutto ed andarsene, e da un aereo guardare una vita di pochi sorrisi, ed è pronto a convincermi che anche se non lo voglio sono come lui, sempre perso nei cazzi miei. Tutte le volte che mi viene da ridere ma senza un perché, mi sembra d'essere tornato con te. Quanto è difficile fidarsi di me, adesso è tempo di cambiare, anche se mi viene da ridere ed in fondo non c'è una risposta a tutti questi perché, ma forse è tempo di pensare per me, sarà il momento di cambiare. E quando mi ritrovo solo con me, mi viene da ridere ma senza un perché, sarà che quando mi ricordo di te è sempre tempo di cambiare, anche se non posso credere che vada così. Non è una vita, forse vivo in un film, è forse tempo di cambiare, tempo di non pensarci più. Sembra d'essere tornato con te. Quanto è difficile fidarsi di me, ma adesso è tempo di cambiare, anche se mi viene da ridere ed in fondo non c'è una risposta a tutti questi perché, ma forse è tempo di pensare per me, sarà il momento.